Sime suon in te suona che fai, non è peccato. E se suona nuova se me dai, non è peccato. Tu me guardi questo che passione, io ti parlo e mi tremo nemmo. Ma sì che sta per te non è bene, ma sai dicerò bene ancora. E sta bocca si derevasa, non è peccato. Ma lo stimo le vita sto suona, che prima c'è da. Più forte a strigna ma che amore che sento per me peccato non è. Non è peccato, ma lo stimo le vita sto suona che prima c'è da. E tu abbracciami più forte a strigna ma che amore che sienta per me non è. Tutto dormiente e non lontano. tormenta antiga. Dila tu sigui gatinta stania. Oh, sa brava. Solo ma che canta fa voce no. Mai più nessuno al mondo t'amerà così. Per te nessuno al mondo soffrirà così. Nessuno mai saprà cosa sei per me, ma forse il tuo cuore sa che vivo per te. Se tu conosci il mondo, tu conosci me. Se tu stai perdendo, pianti stretta a me. È stato un sol destino che due cuori unì. Mai più nessuno al mondo amerà arms of mine. No one can ever offer what I offer you. My heart, my love are yours till the end of time. No Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana. Torna a casa, Spiri Gonzales, devi lasciare quel bar e devi smettere di bere per scordarti di me. Tu m'hai lasciato sola in casa, tu m'hai lasciato perché ho tanto freddo e sono sola, hai detto lacrima per me. Speedy Gonzales, ritorna da me. Speedy Gonzales, non lasciarmi mai più. Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Nascondi il viso col sombrero e ti vergogni perché hai sulle labbra un altro bacio, ma è baciato da me. Se torni ancora tra le mie braccia, io ti perdono perché berremo insieme una tequila e brinderemo al nostro amore. Speedy Gonzales, ritorna da me. Speedy Gonzales, non lasciarmi mai più. Hey Rosita, come quick down at the cantina. They're giving grip stamps with tequila. Speedy Gonzales, why don't you come on? Speedy Gonzales, don't you leave me alone. Thank you. tengono ormai le vetrine un poco alla volta. Se la gente cammina poi svolta ad ogni angolo in fretta, allora vuol dire che sera. Gli occhi e sono mille finestre che hanno una luce, una macchina passa veloce, il suo rombo è lontano, allora puoi dire che sera. Ma freva che saglie tutte sere quando pensa a te. Ne, come ne, che tu si mise in capo in un tuo favore. Sia, rispunna così sia sta preghiera mia. Frenna sia. Frenna sia, che voglia di passare. Che smania e muzzano ga. Frenesia, provizio che ne mano, te donna a carenza. Avimmo fatto amore, come a chi va a rubare, ma ci volimmo bene, chi ci può condannare. La mente come una poesia, chi è un sentimento, è una pazzia, è frenesia. Frenesia, che voglia di passare, che smania, muzzica. La verità, tu pure puoi tornare. Avimmo fatto amore, come a chi va a rubare, ma ci volimmo bene, chi ci può condannare. Piena la mente come una poesia, e chi è un sentimento, è una pazzia. Frenesia. avevo condannato. Era la mente come una poesia, e più è un sentimento, è una pazzia, è frenesia. Già eri di un altro, ricordi c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia, così cominciava la festa. già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te. E poi gettare via, e perché amarti come sei la prima volta, l'ultima. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, vi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, champagne. Santa Chiara, tengo cuore scuro scura, ma perché ogni sera pensa a Napoli com'era, pensa a Napoli com'era. Punta nelle cave monte, il suo cuore ma si schianta quando sente di la gente, ma se fatto malamente, sto paese marocchino. No, paura e ci torna. Ma fa paura e ci torna. destinava la femmina, chi suo che è fatto chiagnere, lacrime famita. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angela, te serve con canna. Femmina, si tu becce una vibra, mentre cade l'anima, non posso più campare. Bene t'odio, non ti posso scorda, si avesse fatta nata quella che è fatta a me, tu mi t'avessi acceso e vuoi sapere perché. Perché coppa sta terra, femmina come a te, non c'è una sta bonoma, onesta come a me. Femmina, tu sei una mala femmina, tuo che hai fatto chiagnere, lacrime infamità. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo, te serve per canna. Femmina, si tu pece una vibra, cade l'anima, non posso più campare. Femmina, tu sia più bella, femmina, ti voglio bene, t'odio, non ti posso scordare. Forever, si lava lo schizzi e mi fa innamorare. Ah, ah, e mo, e mo, te voglio bene, che sto che luna mi fa innamorare. Veniva dal mare Maria, un solo bagaglio da cerchi il mare, l'azzurro dei tuoi sogni, spazi più profondi, una carezza con dita di sale. E piove, cerchi il mare, sarà malato, forse un poco mosso, incerto, ma hai bisogno di lui. E piove, cerchi il mare, un grido di gabbiani e sabbia tra le mani, una conchiglia che faccia rumore. E piove, cerchi il mare, all'orizzonte dietro quelle onde eterne. America. Sono i sentimenti quelli a cui rispondi, non i polsi stupidi. Non lasciate andare, pensa di volare, lui sarà con te. Mare senza fine, mare di balene, di coralli fragili. Mare di nessuno, mare di nettuno, mare grande anima. Canto di sirene nella luce della luna nord-est. E piove, cerchi il mare. Le vele sotto vento, marinai attente ad una stella per farti orientare. E piove, cerchi il mare. E ce ne andiamo in Mediterraneo ed il Mar Nero fa lo stesso per te. Piove, cerchi il mare, il salto di un delfino, un'isola vicina ed una rete per farti pescare. E piove, cerchi il mare, il suo segreto forse una leggenda antica, una favola blu. Vi lasciamo ora in compagnia dei Melodies che allieteranno la serata per voi. Verso una certa ora entra una pantera, sta con lui ma guarda me. Sì. E sto appiccicato sul microfono e dedico canzoni. La guardarobiera vende sigarette con nasino e tette in su. Tutti i fumatori che la puntano si fanno le illusioni. E noi dalla pedana controlliamo i movimenti a umma umma. Finché diamo il cambio all'altra orchestra con la solita Blue Moon. Allo. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Non vedi questa buona puttana? Sto prima io? Sì. c'è la subrettina tutta fondo schiena con accompagnatore doc. A 90 anni, 90 anni c'è. Da ogni parte sbucano i fotografi a caccia di effusioni. Per mandare a casa l'ultima coppietta attacchiamo un finto jazz, Scooby-Doo, Scooby-Doo, che ha lo stesso effetto di un sonnifero con le improvvisazioni. Finalmente pagano, si alzano e spariscono nel blu. E noi li salutiamo con la sigla che è la solita Blue Moon. Hello. Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Ma che ne sai? Ma che ne sai? Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Everybody. Ma che ne sai? Sai, ma non sai niente, ma che sai, non sai niente. Ma lasciami, stai zitto, andiamo a Corè. Un accento romano. Lo sai, è l'ultima occasione che ci resta. Un tentativo per non dire basta, e da domani in poi, per noi, potrebbe cominciare un'altra volta, immagina che poi sarai contenta. Potrebbe essere così. Voglia di piangere, voglia di ridere, non puoi decidere. Sul mare ci siamo stati, ci vorrei tornare per ritrovare un po' di te. Forse non sai. con nuestra gana de bailar. Mambo, la música que nunca olvidarás. Nunca más. Mambo, te habla de lo que quieres sentir. Calienta tu manera de vivir. Te llena el alma de felicidad. Oh. Mambo, ya canta todo el mundo esta canción. Mambo, es como una locura, una pasión. Ya verás, la gente sin parar se bailará. De la noche subirá y este mambo siempre mambará. Innamorata attorno a me, sta canzone amava che stai guardando proprio me, e guardando dentro agli occhi sta volando un pensiero, e così mi trovo accanto vicino a te, e tu bella così pare che mi dice sì. Zitto, stregna sta mano, già pensa quando mi farai morire, e ma sto zitto perché sta canzone tu dice che la gamma già lì, e tu mi stringi più forte sta mano, e io lontana ti porto chissà a dove nisce sta bella canzone. Quanta volta ci credo che ero vera innamorata, quanta avanza senza amore, ma perché? Chi poteva mai sapere la cercavo solo a te. Zitto zitto, stringi sta mano, già pensa quando tra i muri e non sto zitta perché sta canzone dice che la gamma già lì e tu mi stringi tu porta sta mano e io lontana la porta chissà a dove nisce sta bella canzone che fa tanto fa deserta, buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna, ogni benedizione, se cammini e noi siamo contenti. Buona fortuna perché tutto è permesso, buona fortuna, buona fortuna. Chi riesce a staccarla e serena miseria raggiunta. Buona fortuna, mo che a notte vicina. Buona fortuna, buona fortuna. Buona fortuna a chi è ne va male, se fa sempre più nero sti mani. Buona fortuna per sti quattro lambara. Buona fortuna, buona fortuna. Buona fortuna a tutti, buona fortuna. Chi si trova per casa sembra tempo con mani in imbrogli. Buona fortuna perché tutto è normale. Buona fortuna, buona fortuna. Buona fortuna, non passando paria c'è una forza, una bomba in da sacca. Buona fortuna perché ognuno è sospetto. Buona fortuna, buona fortuna. Buona fortuna a tutti, buona fortuna. Chi non scende mai in terra e se gliene sta sempre più su. Buona fortuna perché figlia la luna. Buona fortuna, buona fortuna. Buona fortuna per chi prova e riprova, non c'è sempre una porta sbagliata. Buona fortuna non mancarra nessuna. Buona fortuna, buona fortuna. Buona fortuna a tutti, buona fortuna. Chiaravo giornale e sa mucca una cosa banale. Buona fortuna, sempre la stessa canzone. Buona fortuna, buona fortuna. E buona fortuna per questa bella giornata, questa squadra che vince la partita. E buona fortuna e si gira sta roda. Buona fortuna, buona fortuna. E buona fortuna a tutti, buona fortuna. Buona fortuna a tutti, buona fortuna.